Ah, guarda, io adesso non ti parlo delle firme. Io sono intervenuto in commissione dicendo una cosa molto chiara. Certe attività che fa XM sono incompatibili con l'abitato. Cosa intendo per abitato? Tra l'altro XM ha risposto a questa mia affermazione dicendo e citando la trilogia Naville, che è il nuovo insediamento. La trilogia Naville non c'entra niente, perché quelli della trilogia Naville non hanno problemi di rumore e di problemi rispetto alle attività dell'XM. Chi è che ha sollevato i problemi? Gli abitanti di via Fioravanti, via Gobetti, via Tibaldi, via Franco Bolognese. Perché? Perché quando loro fanno certi tipi di attività molto rumorose, che vanno avanti sino alle 5 o alle 6 di mattina, e quando finiscono queste attività molto rumorose sino a così tardi, alla mattina ci sono decine, alcune volte anche 80-90 persone in mezzo alla strada, sdraiati, chi vomita, chi sta male, che... la gente è stanca di questo. Cioè, che XM24 faccia corsi di italiano, attività culturali, cinematografiche, musicali, cioè attività classiche, nessuno ha nulla da dire. Il tema è che loro fanno delle attività che hanno rotto le scatole agli abitanti storici del quartiere, a quelli che stanno nelle case, non della trilogia Naville che è di dietro e non sente niente, ma di quelli davanti, di quelli che storicamente abitano lì da 40-50 anni. Che quando sentono la musica sino alle 4 e mezza di mattina si inferociscono, quando arrivano che trovano tutto sporco, bottiglie, porcherie, vomito, pisciano, cagano, questi qui che vanno lì, loro non possono dire noi non c'entriamo niente, perché una qualsiasi altra attività commerciale che fa così becca sanzioni e meccanismi di repressione di questi fenomeni. Questo è il problema. Loro bisogna che se ne faccia una ragione. Ci sarà un motivo perché altri centri sociali, ad esempio, certe attività non le fanno nelle loro sedi, ma le vanno a fare al Capmercati, le vanno a fare da altre parti. Questo è il tema. Non so se sono stato chiaro. Sì, ma lei pensa che questa raccolta firme sia stata fatta quindi dagli abitanti storici della Bolognina? È stata fatta da... Adesso io non l'ho promossa la raccolta e non so neanche chi c'è dietro, però so che c'è una raccolta di firme perché una parte dei cittadini in buonissima fede e politicamente non caratterizzati a destra hanno firmato perché erano stanchi di non dormire, stanchi di svegliarsi alla mattina e trovare tutta questa porcheria lungo le scale di casa per queste situazioni qua. Questo è quello che XM non vuol capire. Spero che lo capisca, perché sennò sarà un grane. Quindi non caratterizzati a destra, ha detto. Ma guardi, io sono nato e cresciuto lì, mio padre è nato e cresciuto lì, mia madre è nata, mio nonno, mio bisnonno, chiaro, sarà da oltre 200 anni che stiamo lì. Bene, io conosco migliaia di persone in quel quartiere, ok? Ho fatto il presidente per 12 anni, conosco tutti. Sa quanta gente mi rompe le scatole perché non ne può più quando fanno quel tipo di evento? E le posso garantire che è gente che non voterebbe a destra neanche se gli spari nella testa? Perché uno, quando tu gli rompi le scatole sino alle 5 di mattina, può essere anche più grave rivoluzionario, che se non riesce a dormire si incazza. E quando esce alla mattina, della domenica mattina o del sabato mattina, che trova decine di persone che vomitano, cagano, pisciano e ne combinano di ogni, si incazzano. Perché se vado a farlo sotto casa loro, si incazzano pure loro. Se vengo sotto casa tua, tu cosa fai? Dì la verità. Ti incazzi pure tu. Sono stato chiaro?